Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Como, febbraio 2010. Ero stravolto e ho raccontato tutto a mia moglie. L'armiere confessa il delitto della pizzeria. Dignità e onore. Dar l'esempio per 30 anni è pesante. Spesso mi dico, su, vai in pensione, tesoro. Poi ci penso, butto giù un caffè, sigaretta e passa. Brutta cosa il senso del dovere. T'acchiappa e ti lecca la coscienza con la lingua piena di cocci di vetro. Ma da qui a tener dura una parola. Anzi, due. Dignità e onore. Senti uno che strilla di ottimizzazione, un altro che smadonna per la fatica e i casini, quello che ce l'ha con la stampa e chi invece, se televisione e giornale se ne fottono da di matto. Dignità e onore, ma che ci vuole? La prima volta che vedi il colore del sangue ti tremano le mani e le ginocchia ti fanno ciao ciao. E il battesimo, tocca a tutti. Ma se sei uno che ci crede, vai avanti. Fai il lavoro e amami. Già al secondo calamaro sei più razionale. Scegli bene i reperti, li cataloghi, segui un metodo. Sì, insomma, fai quel che devi. È il lavoro, tesori miei, va così o ciccia? I morti li chiamo calamari, perché dopo un po' diventano bianchi, quasi traslucidi, molli e inerti come appena usciti dal frigorifero in direzione farina e padella. Se aspetti troppo si induriscono e non va bene. Questione di tempi, il calamaro lo lavori, lo stoccafisso, no. Dar l'esempio è fondamentale, altrimenti che imparano? Gli eroi che fine fanno? E i libri? Come li scrivono i libri? Belli loro, sì, intendo quelli che lavorano di penna. Io, ad avere a che fare con un calamaro con due pallottole calibro 38 in petto, la testa tagliata con la sega a rosolarsi nel forno e qualche fesso a ricamarci su paginette e paginette, ma è giusto? Ne vogliamo discutere? E vogliamo parlare di una strage? Magari una bella famiglia fatta lentamente a pezzettini. Una stanza che pare un banco da macelleria e tu che devi giostrare per non lasciare impronte o altro. Così da non inquinare la scena del crimine. Ecco, uno pensa a 30 anni di questa roba, cioè circa 11.000 giorni. Un centinaio di calamari su cui ha lavorato con l'orologio alla mano. È un po' le spalle pesanti se le sente. Poi torni a casa, accendi la televisione. Becchi un telefilm tipo Criminal Minds o CSI e ti rendi conto che quelle sono soddisfazioni. Mio figlio ha 20 anni e quella spazzatura sui serial killer e i poliziotti che li acchiappano la guarda con gli occhioni così. Belli gli eroi, eh? Gli faccio. Sì papà, però non c'è niente da fare, com'è affascinante il cattivo. E a me lo vieni a dire, penso un po' incazzato, ma sorrido e sto zitto. Crescerà, tanto da imparare. Quando ti tirano su a pane ed eroi, alla fine qualcosa di buono lo fai, non ci sono dubbi. Così, verso le 2 di notte, dopo che se n'è andato a dormire, scendo in cantina, accendo lo stereo, mi seguo in poltrona e mi rilasso con la mia collezione. Piedi, mani, crani, pezzi scelti con cura e tutti meravigliosamente conservati per sempre in colate di plastica trasparente. Il mio capolavoro, però, è la testa di Edi, mia moglie, sua madre, 25 anni ed è ancora fresca come quando glielo avevo appena tagliata dal collo. 25 anni, un'eternità. Prima di spegnere la luce mi dico di nuovo, su, vai in pensione, tesoro. Poi ci penso e lo so, è senso del dovere, dignità, onore. Che uomo e che eroe sei, se predichi bene razzoli male, eh? Massimo Smith, in libreria con Il rasoio di Occam. Fanucci Editore, 320 pagine, 18 euro.